Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog sulla prima pagina del Sole 24 Ore Online. Si chiama Guardie o Ladri, lo trovate facilmente anche attraverso un motore di ricerca. Chi ci segue sa che noi nel passato abbiamo parlato più di una volta dei travagli che affronta nel nostro paese la musica classica, la musica operistica, persino i cori. Ricordate che alcuni mesi fa abbiamo parlato di un coro che ha subito qualche traversia, ricorderete, per la presenza di un cantante di colore che è stato osteggiato in ogni modo. Poi abbiamo parlato anche dei teatri e dei cori siciliani. Abbiamo affrontato, insomma, in più di un'occasione quello che è un patrimonio culturale italiano. Ebbene, sembra che ci divertiamo, come spesso amo ripetere, a farci del male. E questo lo deduco da cosa? Da una bellissima lettera che ci è giunta poche settimane fa da un radioascoltatore del Friuli Venezia Giulia, che ci ha segnalato l'indecorosa, a suo giudizio, chiusura dell'orchestra sinfonica appunto di quella regione, del Friuli Venezia Giulia. Prima di affrontare nel vivo l'argomento, sentiamo questo breve frame musicale. Bene, quello che abbiamo ascoltato era appunto una parte di uno dei recenti concerti, degli ultimi concerti tenuti dall'Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia. Per parlarne, per capire come mai questa orchestra è stata abolita, azzerata, non esiste più, noi abbiamo chiamato a discutere con noi il direttore artistico dell'orchestra, Alberto Martini. Buongiorno Martini. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, l'orchestra è stata ufficialmente sciolta il 28 di agosto per volontà dell'assessorato alla cultura. Assessorato alla cultura retto da Roberto Molinaro. Come voi sapete, noi cerchiamo sempre gli interlocutori che sono chiamati in causa dalle vicende che trattiamo. Ebbene, l'assessore Molinaro ha detto alla nostra redazione che è molto impegnato, non ha trovato un minuto per parlare con noi. Ce ne dispiaciamo al punto tale che noi ovviamente la puntata la facciamo ugualmente. Allora, caro Martini, perché la Regione, l'assessorato alla cultura, ma ovviamente queste sono decisioni prese da tutta la Giunta collegialmente, quindi riconducibili per responsabilità in capo a Renzo Tondo, al governatore, ha deciso di sciogliervi? Non lo so, questa è la risposta che le posso dare per prima, ed è la risposta a cui io veramente non riesco a darmi una spiegazione. Le motivazioni sono abbastanza controverse. Cioè, la motivazione ufficiale sono questi passaggi di alcuni contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Allora, andiamo con calma per ricostruire le tessere di questo mosaico. Allora, come giustamente dice lei, si potrebbe pensare che l'orchestra sia stata sciolta per una questione di costi, vale a dire una ventina almeno di orchestrali avrebbe maturato il diritto ad essere assunto a tempo indeterminato, quindi gravare, diciamo così, sui bilanci, le chiederò sui bilanci di chi poi, della regione, di una fondazione, insomma mi dica lei sui bilanci di chi. No, ecco. In realtà non avrebbe neanche gravato, perché il contratto a tempo indeterminato sarebbe stato soltanto sul periodo lavorativo dell'orchestra, ossia l'orchestra lavorava 7 mesi, 8 mesi l'anno e non è che coloro che avrebbero avuto il contratto a tempo indeterminato avrebbero avuto uno stipendio di 12 a mesi, vita. Avrebbero avuto soltanto la garanzia della continuità del contratto, ossia loro ogni anno sapevano che avrebbero avuto quell'impegno di 7-8 mesi della programmazione dell'orchestra. Ecco, però mi pare di capire, almeno nella lettera che ci è stata mandata dal radioascoltatore che ci ha segnalato la cosa, in realtà si legge che il governatore Renzo Tondo avrebbe, uso per forza di cose il condizionale, dichiarato pubblicamente praticamente che gli orchestrali il tempo indeterminato se lo potevano scordare. Allora le chiedo, Martini, se non è un problema di soldi, se lei ci sta dicendo che in realtà il contratto valeva soltanto per il tempo della stagione musicale, perché allora ci si è nascosti dietro una questione economica? Si sono nascosti dietro una questione economica, tant'è vero che, le dico, io ho vissuto, ancora adesso che ne parlo, le garantisco che la sto vivendo molto male. Io quando ho assunto questo mandato l'ho assunto con grande rispetto, grande entusiasmo, grande energia, dopo le dirò come ho svolto il mio lavoro, ma quando io mi sono trovato davanti a questa situazione sono veramente rimasto esterrefatto. Ma le dirò questo: chiudendo l'orchestra, della quale tra l'altro lei giustamente ha detto il 28 agosto è stata sciolta e tutto quanto, io ho un contratto fino al 31 ottobre 2011 e nessuno si è degnato di mandarmi una riga scritta ufficiale dicendo che l'orchestra è stata chiusa. Beh, questo è veramente disdicevole. No, questo lo dico perché è la verità, ma nessuno. Questo mi sembra abbastanza sintomatico della cosa. Beh, ecco, io trovo francamente inconcepibile una cosa del genere. Innanzitutto lo ripeto ancora una volta, perché la musica fa parte della grandissima cultura del nostro paese. Ma poi voglio dire, santo Dio, il Friuli Venezia Giulia è un crogiolo di razze, di culture, a Trieste che è una splendida città mitteleuropea. Ma come si fa a pensare di chiudere un'orchestra sinfonica proprio lì da voi? Io lo trovo veramente sconcertante. Ma andiamo ancora sulla questione non soltanto dei soldi ma del lavoro, perché dietro c'è sacrificio, come lei stesso segnala, c'è lavoro, c'è volontà di approfondire, di volontà di studiare, volontà di fare cultura. Allora, quante persone in questo momento come lei stanno incrociando le dita perché o hanno un contratto come nel suo caso fino al 2011 oppure gli è stato detto di tornarsene a casa? Insomma, quante persone ruotavano intorno a questa macchina culturale, definiamola così? Ecco, una sessantina tra musicisti e direzione amministrativa, amministrativi e collaboratori. Quindi insomma non poche persone, 60-70. Più dopo tutti gli aggiunti che magari in certe produzioni venivano a incrementare l'organico dell'orchestra e così via. Allora andiamo ancora con le provocazioni. Forse il pubblico non vi seguiva, cioè voi avevate sale vuote, poca accoglienza calorosa, allora, una stampa ostile. No, ecco. Anzi, c'è una rassegna stampa ottima, c'è stata una collaborazione con tutte le istituzioni della regione incredibile. Io le dico, il 14 luglio ci fu una audizione in regione davanti alla Commissione Cultura e io alla fine, dopo aver parlato, dopo che hanno parlato tutti gli operatori della regione, dal direttore del teatro di Udine, dal direttore del teatro Verdi di Pordenone, di Gorizia, insomma tutti con coloro che avevano collaborato con l'orchestra, nella quale veniva ratificato il grande lavoro svolto da me ma anche dall'orchestra, il cambio di tendenza di questa orchestra, alla fine io ho detto ma mi sembra di vivere una realtà virtuale, perché tutti stanno parlando benissimo, ma che bravo che è il maestro Martini, ma che bravo che è l'orchestra, ma hanno fatto un anno straordinario e improvvisamente l'orchestra vi chiudono. Ecco, un'altra cosa volevo chiedere, torno sul ruolo della stampa, non perché io creda che la stampa possa fare miracoli, assolutamente no, anzi ormai stiamo andando verso una stagione sempre più cupa su quello che è il nostro ruolo, su quella che è la libertà di stampa. Però leggo in questa lettera che ci è giunta di questo radioascoltatore che vuole rimanere anonimo, che in realtà lì non ne parla nessuno di questa chiusura dell'orchestra sinfonica. Francamente non posso crederci, insomma non posso credere che il popolo friulano, il popolo veneto e giuliano così fiero se ne freghi della chiusura di questa orchestra sinfonica. In realtà durante l'estate, diciamo nel periodo appunto intorno a questa data del 14 luglio, che praticamente è stata la deadline, perché dopo questa audizione che è stata una cosa formale, perché ormai i giochi erano stati fatti, avevano già deciso tutto, è stata una presa in giro, insomma. Ecco, allora io direi che possiamo salutarci dando appuntamento, ancora chiamando in causa Roberto Molinaro, assessore alla cultura della regione Friuli Venezia Giulia. I microfoni sono aperti quando e se deciderà di intervenire. La vorrei salutare in questo modo. Qual è la prima tappa che vi è saltata, che avreste dovuto fare e che invece purtroppo essendo stati sciolti non avete potuto fare? Ma la prima, proprio prima, è stata il 24-25 giugno con il maestro Ludovico Einaudi, proprio per l'inaugurazione tra l'altro di un teatro in regione ad Azzano Decimo con due serate. e quella è saltata, poi dopo Pordenone, eccetera. E via dicendo. Ecco, quello che volevo però dire, e questa è una cosa importante, che l'orchestra è stata chiusa il 28 agosto, ma prima alcuni impegni dell'orchestra sono stati dati a una istituzione, un'orchestra che si chiama Orchestra Mitteleuropa, nasceva in quel momento, che è uscita con fotografie, curriculum dell'orchestra. Ah, questo è un bel tema da approfondire, questa cosa è da approfondire. Ci piace. Allora, torneremo sul tema. Io la ringrazio per il suo intervento, ringrazio in regia Filippo Oreggi e in studio Antonella Migliaccio, e Roberto Calullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.